Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, teniamo in sottofondo questo brano che è la sigla iniziale di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che ogni giovedì è in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Anche oggi, 26 marzo 2026, siamo qui. E ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come già detto, andremo avanti fino alle ore 21:30, ma ora andiamo all'ascolto di questa, che è stata una storica band del punk hardcore italiano dei primi anni 80. Loro erano di Alessandria, Piemonte, e si chiamavano Peggio Punk, e da un loro EP 12 pollici uscito nell'85 ci ascoltiamo un paio di brani, e questo EP si chiama Ci stanno uccidendo al suono della nostra musica. Peggio Punk. Come on. capitale, i suoi modelli, le sue ricchezze, è solo un furto, la società. Bisogna urlare, la libertà, due sui muri, in cemento, dietro le sbarre, di una prigione, lungo le vie, una città. Bisogna battere lo Stato, privilegi della sua gente, capitalismo non è lavoro, è solo un furto, la società. Sì, un saluto anche da parte mia, bentornate, bentornati a Zernis Magnetics. Allora, prima così di iniziare un po' con gli argomenti che vorremmo affrontare questa sera, vorremmo appunto iniziare con il cordoglio, insomma, per i compagni Sara e Alessandro, morti nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Roma. Sì, sono state scritte molte parole significative, insomma, e così molto sentite e toccanti sulle loro persone, cioè sulle caratteristiche di questi compagni. Da parte nostra, appunto, ci associamo a questa a questa vicinanza, alla vicinanza anche ai compagni, a loro più vicini, e niente, dedichiamo una canzone come La notte dei Lud, e possiamo solo dire questo, che per i compagni che sono disposti così a dare tutto, diciamo, per la lotta, possiamo dire che la loro passione per la vita e per la libertà è più forte della morte. Penso a quel compagno torturato dalla Gestapo, al suo ritorno per un patto sigillato tra il filo spinato. Penso al suo sorriso da bambino, all'audacia e alla bontà. Una divisa assassina, nascondita tutti, ciao a tutte e tutti, un saluto anche da parte mia per questa puntata di Zardins Magnetics. Dunque, andiamo con un contributo così di aggiornamento sulla vicenda che riguarda il ciclo di lotte per contro il 41 bis e per la libertà di Alfredo Cospito, che erano, risalgono insomma al periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023. Lo scorso 18 marzo a Bologna si è svolta la prima udienza del processo per la mobilitazione, appunto, che di cui io ho detto, e andiamo a leggere una, perché riteniamo significativa, la dichiarazione che è stata letta, insomma è stata pronunciata in aula al Tribunale di Bologna, appunto, in questa prima udienza. I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 22, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e contro l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni, per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti, per la stazione di Bologna, 85 morti, per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti, per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno nel 2008, 8 morti, in nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione, né è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi, prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice, e semmai questa la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate, entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi allo Stato evidente al mondo intero. Scusate che ho saltato una riga. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero, grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo, altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione invece ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui, hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo da parte di questa molteplicità di voci non era fare pressioni per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta e che non si può cancellare è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro le moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. L'Istituto dell'Antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia, arbitrarietà e violenza di cui è dotato il sistema punitivo della giustizia italiana, il 41 bis e l'ergastolo ostativo sono due strumenti di tortura. E non si tratta di un artificio retorico, ma di un'analisi sostanziale dell'utilizzo di questi istituti, partendo proprio dal significato letterale del termine, che, citando la Treccani, si riferisce a varie forme di coercizione fisica applicate a un imputato allo scopo di estorcere una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime 41 bis per 4 anni per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti e detenute sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo di 20 anni arrestato per spaccio nel Nord Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito, la tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, virgolette, siano essi comunisti, come Lioce, Morandi e Mezzasalma, in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici, come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via di uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, per minare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppure in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi? Fa paura, a fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo precipitando, pensare alla possibile ulteriore estensione di questo istituto detentivo. Non serve essere antagonisti, anarchici o chi che sia per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno l'avevamo detto, proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato a fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in questi mesi di sciopero della fame a fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis e la nostra solidarietà verso il popolo palestinese che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragion d'essere. Firmato imputate e imputati. Ecco, allora, ricordo che si tratta di sei compagni e compagni con imputazioni varie per danneggiamento di un cantiere durante l'occupazione di una gru, incendio di due ripetitori e un'interruzione di una messa addirittura. Queste sono le imputazioni. Ricordo anche i principali due appuntamenti che si sono già stati programmati con la prospettiva, diciamo, di quello che sarà la mobilitazione allo scadere dei 2 anni, cioè dei 2+2 anni, cioè dei 4 anni, scusate, poi diventeranno 2 della condanna, diciamo, a scontare la pena in regime di 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito. I due appuntamenti, dicevo, sono un'assemblea pubblica il 10 aprile a Roma con la chiamata Fuori Alfredo del 41 bis e una settimana dopo, il 18 aprile, ci sarà, appunto, è previsto un corteo sempre con, appunto, in solidarietà ad Alfredo fuori dal 41 bis. E stiamo ascoltando questa band inglese, esattamente di Bristol. Loro sono gli Split Dogs, band che si è formata nel 2020, che ha già all'attivo un paio di album, appunto anche questo che si chiama Here to Destroy, che è dell'anno scorso, quindi 2025. Split Dogs. Sì, e mi collego un attimo all'intervento precedente per dare notizia anche di un presidio al carcere di Forlì, previsto per lunedì 30 marzo alle ore 18, appunto carcere La Rocca Forlì, perché in quella giornata, nella mattinata, praticamente ci sarà la sentenza sull'opposizione all'archiviazione per il massacro del carcere Sant'Anna di Modena del marzo 2020. Questa opposizione è stata presentata dai familiari degli otto prigionieri che sono stati ammazzati a Modena, proprio nel carcere lì, e appunto in questa occasione, insomma, compagni e compagni hanno organizzato questo presidio. E per non dimenticare appunto ciò che successe, questa inaugurazione, diciamo, della gestione autoritaria della pandemia con questa mattanza tra l'8 e il 9 marzo del 2020, e per dare anche coraggio, diciamo, per sostenere tutti quei familiari e quei detenuti che non si rassegnano a questa archiviazione, e anche in solidarietà appunto in appoggio ad Alfredo Cospito, ricordando che il 4 maggio sì, è la data fatidica, diciamo, per il rifiuto o il rinnovo del regime di detenzione in 41 bis. E appunto leggendo brevemente la conclusione del volantino, oggi lo Stato si vendica e condanna compagni solidali che si sono battuti in quei giorni febbrili con pesantissime richieste di anni di galera, chiesti per esempio fino a 12 anni a Torino nell'operazione City. Scendiamo in strada anche per lui e per tutte le compagne e compagni prigionieri nel mondo, nostri fratelli e sorelle, colpevoli del più bel delitto mai sognato e mai commesso, la libertà, fino a che di ogni galera non resteranno che macerie. E allora proviamo ad arrivare così alla riflessione un po' messa insieme per questa serata, per questa puntata di Zaris Magnetics. Diciamo, il punto di partenza sono, per chi ha ricevuto così la scaletta, la promo, diciamo, si viene citata questa frase di Walter Benjamin: nemmeno i morti saranno al sicuro se il nemico vince. E appunto a questa frase abbiamo aggiunto, diciamo, una, come dire, un'affermazione di, dell'importanza di non lasciar vincere il nemico. Beh, il nemico lo possiamo così rappresentare con il capitalismo predatore, il patriarcato, il colonialismo. E poi anche, dicevamo, teniamo aperta la ferita. Allora, il punto di partenza sono alcuni contributi importanti che, secondo noi, che sono stati pubblicati. Allora, si tratta di un testo che si intitola Mistificazione, pubblicato sul blog della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Roma, e poi di un altro che si intitola L'isola di Epstein, ovvero il tecnocapitalismo predatore, prima parte, che è stata un contributo che è stato pubblicato sul Rovescio. Entrambi i testi, diciamo, colgono una, secondo me, un aspetto importante, cioè una, diciamo, una, un aspetto strutturale, sì, e non così estemporaneo, e quindi strutturale, quindi mai senza fine, per così dire, e in un caso del patriarcato, nell'altro caso del, e quindi rispetto all'approfondimento proposto da Mistificazione, delle compagne della Coordinamento Femminista Lesbica, e poi anche della accumulazione originaria del capitale, no? E nel caso di questo articolo, appunto, su questa che viene definita la Compagnia delle Indie, diciamo, di Epstein. E questa, così, mettere a fuoco la questione strutturale del nemico, e porta anche, però, contemporaneamente, quindi non è solo un'analisi, ma porta anche a ribadire la necessità di confrontarsi, di combattere il patriarcato e il tecnocapitalismo predatore continuamente, insomma, cioè di modificare, cioè di capire questi rapporti di forza e, appunto, lottare contro questo nemico, di anche modificare, nel senso di comprendere, insomma, che forme deve assumere questa lotta, le varie forme che questa lotta può assumere, e quindi anche sì, avere una progettualità di lotta e di cambiamento radicale, insomma. Allora, poi terzo così contributo importante, cioè terzo spunto importante, è qualcosa che riguarda invece tutta questa grande messa in scena, questa grande messa in scena distopica dell'identificazione tra antisemitismo e antisionismo. Quindi una critica, appunto, a queste accuse di antisemitismo che sono volte solo a impedire, cioè annientare, qualsiasi forma di critica dello Stato colonialista di Israele, ma questa, e poi anche, appunto, e poi anche un approfondimento sul concetto di razzismo più in generale. E questo ci viene da una scrittrice palestinese della diaspora che vive attualmente negli Stati Uniti ed è nata in Kuwait, perché, appunto, ha un poco più di 50 anni, perché, appunto, i suoi familiari, insomma, non hanno potuto rimanere in Palestina, e Susan Abulawa, che ci parla di queste cose, quindi antisemitismo, antisionismo, razzismo, rispetto a un'accusa che lei ha subito, appunto, un'accusa di antisemitismo da parte del sindaco di New York, Zoran Mamdani, che è stato tanto così incensato, diciamo, dalla sinistra. Ma partiamo

Sì, continuiamo questa, queste letture e riflessioni, arrivando a questo contributo su il tecnocapitalismo predatore. Appunto, si parte dalla vicenda di Epstein e appunto, come dicevo prima, questa sorta di compagnia delle Indie con tutti i vari rampolli della Casa Reale inglese, i commercianti, i politici, gli intellettuali, eccetera. Sì, le compagne e compagni che hanno steso questo contributo ci scrivono: perché tecnocrati, eugenisti, faccendieri e servizi segreti si servono di un predatore sessuale come Epstein? Perché le nuove recinzioni di risorse naturali e di facoltà umane hanno sempre un corrispettivo nella violenza sul corpo delle donne e dei bambini? Cosa aggiunge alle nefandezze coloniali e sessiste accumulatesi nella storia la smisurata potenza tecnologica di cui godono oggi i dominatori? In questo primo, diciamo, contributo, questa prima parte, non entrano in merito ai file di Epstein, ma fanno un discorso più generale e partono dal discorso di Gaza. Ci dicono: per comprendere il genocidio del popolo palestinese bisogna capire cos'è un colonialismo di insediamento, la cui violenza non è un evento ma una struttura, appunto. Qualcosa di analogo vale per quella che Marx ha chiamato accumulazione originaria del capitale. Come hanno spiegato altre femministe, Silvia Federici, Maria Mies, Veronica Bernold Thompson e altre, quell'accumulazione non è un lontano evento storico, bensì una struttura che si rinnova di continuo e che riattualizza la sua brutalità originaria, soprattutto nei periodi di profonda ristrutturazione. Per capirlo è necessario liberarsi di una zavorra, e cioè della concezione lineare progressiva del tempo storico. Inoltre, lo sviluppo tecnologico, appunto, che ne dicano i sostenitori dello sviluppo, cioè di una concezione lineare progressiva, appunto, del tempo storico, lo sviluppo tecnologico non supera la cosiddetta barbarie del passato, ma anzi la dota di una maggiore potenza e di una nuova potenza. E difatti, dentro questa dinamica strutturale, vediamo tornare armati di tutto punto i caratteri salienti che hanno presieduto alla nascita del capitalismo: la violenza coloniale, la recinzione delle terre, la distruzione dei beni comuni, lo sviluppo della scienza, anzi dello scientismo, l'attacco ai saperi medici popolari, il soggiogamento delle donne e la caccia alle streghe. Sì, le enclosure, insomma, non sono solamente al giorno d'oggi la chiusura delle terre, anche se c'è anche questo, ma vanno a toccare i cicli vitali stessi della natura, dalla produzione di sementi sterili alla biologia di sintesi, e vanno a toccare anche le facoltà della specie umana, sottoposta a una gigantesca disaccumulazione di saperi e capacità prodotti in milioni di anni. Ecco, e boh, vengono fatti vari esempi, ad esempio i cacciatori di geni che accaparrano per la tecnoindustria le conoscenze indigene sulle proprietà farmaceutiche delle piante, e poi la criminalizzazione delle cure non ufficiali durante il Covid, e poi questo articolo parla anche di una vera caccia alle streghe, cioè questo ritorno, diciamo, di una persecuzione di questo tipo. Centinaia di migliaia di donne che, come ha documentato tra le altre Silvia Federici, vengono rinchiuse in campi per streghe o uccise. Questo avviene soprattutto in Africa, e queste donne sono molto spesso anziane, sole e contadine, ma la loro morte permette la privatizzazione delle terre che queste donne coltivano. E però questa privatizzazione viene comunque manipolata, manovrata dal Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale. Quindi si assiste oggi proprio a un intreccio tra la logica patriarcale, che può sembrare, diciamo, ancestrale, insomma, può sembrare atavica, le superstizioni popolari e appunto questi piani perversi di aggiustamento strutturale. E da questo punto di vista non è casuale che migliaia di donne siano state rinchiuse, violentate e uccise nell'Indonesia di Suharto in quanto streghe comuniste, né che l'ambasciatore israeliano all'ONU abbia definito strega Francesca Albanese. Lo stesso vale per la denuncia del rapporto tra la sparizione di migliaia di donne ogni anno in Messico e la guerra dei narcos, la cosiddetta guerra dei narcos, denuncia che spesso omette il ruolo dello Stato, delle compagnie minerarie e degli accaparratori tecno-industriali di terra. Possiamo tracciare un primo parallelo tra l'orrore di Gaza, i campi di annientamento in Messico e le segrete sull'isola di Epstein. Chi si appresta a colonizzare Marte e a schiavizzare miliardi di persone, pensiamo a Elon Musk o a Peter Thiel, deve dimostrare anche nella vita quotidiana di non avere alcun limite etico. Il corpo femminile da violentare è insieme trofeo, sigillo di appartenenza e ventre da cui far uscire la nuova stirpe di dominatori. Ma a questa brutalità tipica delle piantagioni schiavistiche si aggiungono oggi progetti di potenza che sono tecnicamente transumani. In comune con i vari Gates, Musk e Thiel non c'è solo il fatto che fanno parte di una comunità di predatori sessuali, c'era molto di più, una visione del mondo, quella secondo cui le masse sono solo bestiame da cui si distingue una nuova stirpe di padroni che aspirano a superare i limiti della terra e persino della morte. Le bestie non sono solo i popoli di colore e le donne, ma gli umani che vogliono rimanere tali, cioè creature terrestre e mortali. E poi viene citato in questo contributo, parlando appunto di violenza coloniale riattualizzata e anche rivendicata, il discorso che Marco Rubio ha tenuto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. E praticamente Rubio dice: per 500 anni la civiltà occidentale ha conquistato con soldati, mercanti e missionari tutti i continenti. La conquista ha subito una battuta d'arresto a causa delle rivoluzioni anticoloniali e della perversa ideologia comunista, ma ora può riprendere il suo glorioso cammino. Ma io, se riesco, vi leggerei proprio letteralmente ciò che dice Rubio, perché parla proprio in maniera precisa degli eserciti. Scusate un attimo. Allora, discorso del segretario di Stato americano Marco Rubio alla conferenza sulla sicurezza di Monaco dello scorso 14 febbraio 2026. Facciamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo legati gli uni agli altri dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia comune, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e dai sacrifici che i nostri antenati hanno compiuto insieme per la civiltà comune di cui siamo eredi. La questione fondamentale a cui dobbiamo rispondere fin dall'inizio è cosa stiamo difendendo esattamente, perché gli eserciti non combattono per astrazioni. Gli eserciti combattono per un popolo, gli eserciti combattono per una nazione, gli eserciti combattono per uno stile di vita. Ed è questo che stiamo difendendo, una grande civiltà che ha tutte le ragioni per essere orgogliosa della sua storia, fiduciosa nel suo futuro e che mira a essere sempre padrona del proprio destino economico e politico. Ecco, e così, continuando questa carrellata di pensieri relativi all'isola di Epstein, vediamo un po' come continua questo approfondimento. Dai documenti Epstein emergono due livelli di corporeità: quello delle donne e dei bambini sacrificabili, intesi come corpi da sfruttare e violentare, e quello dei bambini su misura, creati grazie all'editing genetico. In entrambi i casi si tratta di accumulazione, ma il valore attribuito ai due livelli, ai due corpi, è molto diverso, e diverso è anche il valore del prodotto commercializzabile. E si parla appunto per questo di nuovo nazismo. Ora i progetti transumani non si sviluppano in un mondo liscio, bensì dentro la giungla d'acciaio e silicio della competizione statale capitalistica. La vasta rete di ricatto, organizzata attorno ad Epstein dal sistema Israele, diventa allora una forma di selezione e cooptazione, di cui battibecchi su chi abbia pianificato gli attacchi all'Iran, cioè su chi sia intervenuto a sostegno di chi tra USA e regime sionista, sembrano un'insanguinata appendice. Il triangolo tra l'appartamento di Epstein a Manhattan, Ehud Barak e il consolato israeliano di New York smentisce che si trattasse di operazioni deviate dei servizi segreti. Parliamo dell'ex primo ministro e dei vertici dell'intelligence israeliani. Il collante di questa rete, tuttavia, non è solo politico, affaristico, sessuale, ma anche ideologico. Potremmo chiamarlo suprematismo 4.0, un suprematismo che considera i colonizzati sia animali umani che spazzatura algoritmica. Le prime sono le ben note parole dell'ex ministro della difesa Gallant, le seconde quelle usate da un comandante dell'unità 8200, il reparto dell'IDF, che ha pianificato gli attacchi a Gaza basati sull'intelligenza artificiale. La potenza che il complesso israelo-statunitense occidentale ha scatenato contro la striscia è stata ed è programmaticamente ecocida, femminicida e infanticida, volta cioè a cancellare la riproduzione della vita. Più in generale, la furia coloniale estrattivista del capitale, dalla Palestina al Messico, dall'Asia all'Africa, si poggia sempre a imbuto sui corpi delle donne e dei bambini. Le epoche apocalittiche sono quelle che ricapitolano e svelano, fino alla possibile rottura dell'intera trama, l'immane violenza accumulata e insieme rimossa nel processo storico che le ha costituite. Le due apocalissi del nostro tempo sono la distruzione di Gaza e il castello degli orrori di Epstein. Solo una violenza altrettanto apocalittica ce ne può liberare. Apocalittica qui non significa affatto smisurata, bensì radicalmente altra. Nutrita cioè dal perenne disgusto verso i mezzi mostruosi e disumani del potere contro cui si è dovuta sollevare. Sì, siamo sempre su The Dance Magnetics e appunto arriviamo, diciamo, al terzo spunto che vi proponiamo per questa sera. Vi dicevo di questa risposta della scrittrice Susan Abulava all'accusa di antisemitismo mossa contro di lei da Zoran Mamdani, sindaco di New York. Allora, che cosa è successo? Questa scrittrice palestinese, che appunto vive negli Stati Uniti, nel 2024 è andata a Gaza, e nel bel mezzo quindi delle campagne di bombardamenti di Israele, volta a radere al suolo la striscia, è andata a Gaza per fare dei laboratori di scrittura rivolti appunto ai giovani di lì. E, può sembrare una stupidaggine, diciamo, pensare ai laboratori di scrittura nel bel mezzo di una guerra genocida, ma invece lei ci dice no, perché questi giovani che erano ridotti, diciamo, che sono stati ridotti dalla guerra a esseri viventi, diciamo, occupati solo dalla sopravvivenza, dalla pura sopravvivenza, e quindi mangiare, coprirsi e respirare, insomma, e sopravvivere, e hanno trovato in questa l'opportunità, insomma, e quindi hanno rischiato anche la vita, paradossalmente, per partecipare a questi momenti collettivi, perché questo ha dato loro, cioè ha permesso loro in qualche modo di ricostruirsi, diciamo, come persone, e di andare al di là, appunto, cioè di esercitare la loro personalità, le loro potenzialità anche. E da questi così appuntamenti è nato un libro che raccoglie 18 racconti, e tra tutti questi racconti, praticamente, un racconto breve che si intitola Una traccia di sapone, scritto da Diana Islay, una giovane donna di Gaza sopravvissuta al genocidio e che continua a cercare di sopravvivere. L'autrice di questo racconto è questa giovane donna, insomma, che racconta appunto praticamente la sua esperienza, cioè il trauma che ha subito dovendo utilizzare un bagno pubblico con altre centinaia di donne che uscivano dalle loro tende e aspettavano in fila nella sporcizia, nella miseria, insomma, quindi una specie di disumanizzazione passata. E allora questo è una roba un po' così. Comunque, la moglie del sindaco di New York, che è una illustratrice, ha chiesto a questa scrittrice di illustrare il libro. Da lì è venuto fuori tutto un casino, e praticamente, insomma, hanno montato un caso. E comunque la scrittrice Susan Abulava è stata accusata di antisemitismo e di aver, manipolato, insomma, questa disegnatrice, questa illustratrice. Ma a parte queste faccende di cronaca, diciamo, però secondo me lei è stata ha fatto un attacco poi al sindaco di New York per rifiutare questa accusa di antisemitismo. Ha fatto un attacco intelligente e molto significativo. Allora, lei dice: voglio parlare di questa accusa di antisemitismo contro di me e anche della natura dei requisiti del razzismo in generale. Tanto per cominciare, inizierò con la parola semita. A differenza degli ebrei aschenaziti bianchi che mi attaccano, io sono una persona realmente semita. Il semitismo è solo un altro pezzo della nostra identità che ci hanno rubato. I sionisti ci hanno espropriato delle nostre case, del nostro patrimonio, della nostra terra, dei nostri cimiteri ancestrali, dei nostri frutteti, dei nostri manufatti, dei nostri libri, archivi, foto, risorse e di tantissimo altro ancora. Indossano la nostra pelle, letteralmente, dalla loro famosa banca della pelle. che hanno creato con i corpi mutilati dei nostri martiri e indossano la nostra pelle in senso figurato nelle storie autoctone di cui si sono appropriati, nel patrimonio culinario e sartoriale che questi colonizzatori ebrei europei suprematisti rivendicano come proprio. E questa cosa che dice della banca della pelle, praticamente nel 1986 è stata istituita questa Israel National Skin Bank insieme al corpo medico delle forze di difesa israeliane e dal Ministero della Salute. Lo scopo principale di questa banca della pelle è fornire pelle proveniente da cadaveri per il trattamento delle vittime di gravi ustioni, in particolare quelle causate da conflitti bellici o da incidenti con un elevato numero di vittime, e queste cadaveri da cui loro prelevano sono appunto i cadaveri dei, come dice lei, dei nostri martiri, cioè dei martiri palestinesi. Quindi, continua Susan, affronterò invece l'antigiudaismo e la natura del razzismo in generale, perché la caratteristica più fondamentale del razzismo, anzi il prerequisito primario e forse unico per qualsiasi tipo di razzismo, è un gradiente di potere. È una differenza di potere che facilita il trasferimento di abuso e oppressione da chi ha potere a chi non ce l'ha. Pertanto il razzismo è unidirezionale, può provenire solo da chi detiene il potere. Ad esempio, il cecchino che ha sparato a Nur, la figlia di 3 anni della mia amica Jian, frantumandole entrambe le gambette tra le braccia di sua madre a Gaza, è un mostro odioso e razzista. So che questa sia una delle cose per cui sono stata criticata, ma francamente lo ribadisco con forza. Ma la rabbia, il disgusto e persino l'odio che Jian e io proviamo per quel cecchino non è razzismo, non è antigiudaismo, non è antisemitismo, né lo sono i suoi sentimenti verso il soldato del carro armato che ha fatto esplodere la nuca di suo figlio Arab, facendo sì che le dita della madre affondassero nel suo cervello quando ha cercato di prenderlo tra le braccia. I nostri sentimenti o le nostre parole in risposta a 78 anni di questa barbarica violenza coloniale non sono riprovevoli, non sono antisemiti e non sono antiebraici. Infatti, nonostante tutto ciò che ci hanno fatto, nonostante che la stragrande maggioranza degli ebrei, sia all'interno che all'esterno di Israele, sostenga questa carneficina e questa sopraffazione sionista, abbiamo ancora la sensibilità umana di riconoscere quegli ebrei, per quanto minoritari possano essere, che non sostengono Israele, e di accogliere la minoranza ancora più esigua di coloro che sono antisionisti. Di fatto, persone come Ilan Pappé, Richard Falk, Mark Perlmutter, Aaron Maté, Kathy Alper, Max Blumenthal, Natura e Carta, quegli ebrei che dedicano le loro competenze e il loro impegno a smascherare la criminalità sionista e la supremazia ebraica, abbiamo mantenuto la nostra umanità, nonostante la violenza incessante e a più livelli contro di noi. I sentimenti di dolore, rabbia, disprezzo o odio, uniti all'impotenza di porre fine alla sofferenza, sono ciò che in arabo chiamiamo kaer. È una reazione a quel tipo di razzismo violento che non si ha il potere di alterare o alleviare in modo significativo. È importante che lei capisca la differenza, signor Mamdani. Israele, e per estensione gli israeliani, che come ci viene costantemente ripetuto sono l'unica democrazia della regione, hanno distrutto, frantumato e derubato la mia famiglia di tutto. Hanno fatto lo stesso con ogni famiglia palestinese, ovunque si trovi su questo pianeta. Hanno commesso un genocidio sotto gli occhi del mondo, in tutta la sua crudezza e il suo orrore, il suo terrore apocalittico, la sua ferita generazionale e il suo danno morale a tutta l'umanità. Nessuna parola può rendere adeguatamente l'idea del male a cui ho assistito e che ho subito per mano loro. Non ho parole sufficienti per descrivere ciò che ci hanno fatto, che odore a Gaza, come ci si vive e come appare da vicino adesso. Ma è il tipo di conoscenza che cambia la vita e ti fa capire che il minimo che si possa fare è dire al potere la verità, avere il coraggio delle proprie convinzioni, esercitare il privilegio di avere una voce, per quanto smorzata o oscurata possa essere. Parlare con forza per coloro che sono indifesi contro la violenza odiosa dello Stato coloniale. Questo è tutto il potere che ho e continuerò a usarlo finché avrò respiro. Non ho il potere di cambiare materialmente la nostra condizione, né tantomeno di danneggiare i nostri aguzzini, ma loro hanno quel potere e lo usano quotidianamente contro di noi. Nel mio caso ciò ha significato che io e la mia famiglia, oltre ad essere stati espropriati ed esiliati dalla nostra patria, siamo stati licenziati dai nostri lavori, cancellati, emarginati, esclusi e in altri modi privati dei nostri mezzi di sussistenza. Hanno usato il loro potere per persuadere politici di spicco a denigrarmi pubblicamente. Lei non è il primo, signor Mamdani. Sionisti, miliardari, il premier dell'Australia meridionale, uno dei miei stessi editori stranieri, giornalisti, il presidente dell'Open University e i membri del consiglio di amministrazione e molte altre persone potenti l'hanno preceduta nell'attaccarmi per aver osato non usare mezzi termini o autocensurarmi quando parlo delle forze demoniache che hanno devastato i nostri corpi, le nostre vite, i nostri figli, il nostro stesso posto nel mondo. Nessuno può dirmi come dovrei parlare delle persone che hanno costretto la mia orgogliosa nonna a vivere in una baracca infestata di insetti affinché ebrei stranieri potessero vivere nella sua casa di Gerusalemme. Nessuno mi dirà cosa dire degli israeliani che hanno messo in musica la nostra angoscia e hanno creato un genere di tendenza su TikTok con i corpi mutilati dei nostri bambini. Vabbè, e poi la Susan, questa scrittrice, Susan Abulava, continua insomma la sua così invettiva anche dando dei consigli tra virgolette a Mamdani, insomma, di perché capisca le cose, ma a parte questo è anche il finale della sua invettiva che è significativa e che un po' diciamo chiude il cerchio dei discorsi che abbiamo cercato di portare avanti stasera. E ci scrive: e lasciatemi concludere questo sincero messaggio con l'augurio di gloria ai nostri martiri e di vittoria a ogni nazione, a ogni individuo, ovunque oggi si combatta contro la tirannia della classe degli Epstein. Thank you. Ecco, allora state ascoltando naturalmente sempre Zardins Magnetics, un programma che va in onda su Radio Onde Furlane in FM, in streaming, in diretta, mentre viene poi anche rimbalzato da Radio Eustachio. Siamo al momento così degli appuntamenti nelle nostre zone, in particolare nella città di Udine, questo sabato, che è 28 marzo, alle ore 20, nello spazio autogestito di in via dei Rubei 43 a Udine, si svolgerà la proiezione di un lavoro dal titolo Foragers. Allora, l'autore di questo documentario è Yumana Manna. Girato sugli altipiani del Golan in Galilea e Gerusalemme, si muove tra il documentario e la fiction. Parla della legge che proibisce ai palestinesi di raccogliere piante spontanee, quindi un film corale sulla vita quotidiana nei territori occupati, passando per il tema dell'identità alimentare. Ecco, poi c'è un testo che accompagna questa chiamata, questa iniziativa. Abbiamo pensato di proporre la visione di Foragers per continuare con le iniziative di sostegno e solidarietà con le varie forme di resistenza del popolo palestinese e di tutti i nativi in lotta contro il colonialismo e il capitalismo e per l'autodeterminazione, e anche per sviluppare e approfondire le nostre forme di resistenza contro lo spossessamento dei mezzi di sussistenza, dei legami ancestrali con la natura non umana e dei saperi sulla terra che ci viene imposto dal dominio tecnocratico attraverso la guerra al vivente. Facciamoci raccoglitrici e seminatori di rivolta, perché siamo la terra e la terra è noi. Ecco, ultima cosa che non ho detto, che questo Foragers di Yumana Manna è un documentario, appunto, docufiction del 2022. Lo proiettiamo, come detto, a spazio autogestito a Udine, appuntamento ore 20 in via De Rubeis a Udine. Siete tutte invitate e invitati. Bene, teniamo in sottofondo questo brano che segue, che comunque volevo anche presentare un po' quello che abbiamo ascoltato in precedenza. Durante gli interventi più volte abbiamo ascoltato gli Anaeroba, band slovena che fece un album nel 2008 circa, poi venne ristampato su vinile nel 2010, mentre ora ci stiamo ascoltando in sottofondo dei brani estrapolati da una compilation che è uscita esattamente proprio fresca uscita 2 settimane fa, che si chiama Punks Against Ice, che questo sarebbe l'acronimo di Immigration and Customs Enforcement, che praticamente sarebbe un'agenzia federale praticamente di un dipartimento della polizia, insomma di sicurezza interna, e ovviamente che non si trova qui in Italia o in Europa, ma comunque negli Stati Uniti. Vabbè, questa è una compilation, diciamo, benefit o comunque contro questi ICE. E che altro dire, insomma, per anzi, così lasciamo altro spazio musicale. Siamo questa trasmissione, che come l'abbiamo già detto più volte, è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Dato che mancano pochi minuti, anche vi leggo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, basta intestare a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa odierna puntata, ma che è quella del 26 marzo 2026, e anche quella delle volte scorse, potete riascoltare il tutto sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Vi lascio ancora con un brano che probabilmente la band che seguirà, vabbè, ce n'è due, una sta andando, poi seguiranno questa band che si chiamano Coke. E salutiamo anche chi ci ascolta domani, così di rimando, ovvero venerdì mattina alle ore 11 su Radio Eustachio e dalle ore 17 invece su Radiazione 2 Web Radio. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.